Ancora buona Pasqua, ben trovati con Mirko Cavallin in studio per la nostra consueta rubrica settimanale che non manca nemmeno oggi, dedicata al centenario di San Pio X. Il prossimo 23 agosto alle Cendrole, al santuario che lui da bambino frequentava, ci sarà la Santa Messa solenne nel centenario appunto della morte, che di per sé ricorre il 20, ma la disponibilità del Cardinale Segretario di Stato Monsignor Pietro Parolini è stata data appunto per sabato 23 agosto in serata per questa grande concelebrazione, con l'indulgenza plenaria concessa da Papa Francesco, indulgenza che si può ricevere anche visitando, secondo le modalità consuete, anche le chiese di dove Pio X ha svolto servizio, quindi Riese ovviamente, Salzano, Tombolo e la cattedrale di Treviso. E proprio a Treviso c'è l'opportunità di vedere Pio X anche in alcuni dipinti. Spesso non si notano perché sono nell'area presbiterale e quindi difficilmente visibili se non un po' di traverso. C'è la grande statua dorata a Pio X, che si trova alla fine della navata destra prima di salire verso la sacrestia. Era il 1914 agosto, mentre il pittore Biagio Biagetti stava dipingendo lo stemma di Pio X che campeggia al centro del primo degli affreschi dedicati proprio al Papa Trevigiano nella cattedrale, e proprio in quei giorni il pontefice ritornava alla casa del padre. Il compito di realizzare questi dipinti era stato dato al pittore Biagetti qualche tempo prima dal capitolo della cattedrale, che voleva celebrare, ricordare Giuseppe Sarto, sacerdote della diocesi di Treviso, già membro dello stesso capitolo della cattedrale e in quei giorni, in quegli anni, sommo pontefice. Biagetti era uno degli artisti più apprezzati nell'ambito dell'arte cristiana. Basti pensare agli importanti lavori eseguiti a Padova, nella Basilica del Santo o nel Santuario di Loreto o in molte chiese della città di Roma. Si dedicò, dopo aver ricevuto l'incarico, allo studio dell'opera di Pio X per trarne ispirazione e riuscire a tradurre in immagini l'azione di riforma del Papa. Questi affreschi sono impostati come due trittici, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro del presbiterio del Duomo di Treviso. Sono dedicati il primo al Magistero Pontificio, il secondo una sintesi dei temi Eucaristia e Sacerdozio. Ci sono dei testi, delle cornici che dividono ogni affresco in tre parti, anche frasi della Bibbia o dei padri della Chiesa. Il primo trittico parla del Magistero Papale, della prima enciclica di Pio X e Supremi Apostolatus Cattedra. Il Papa definiva il suo programma pastorale ed è stato scelto questo titolo per l'affresco sulla parete destra, che è stato il primo realizzato. C'è il Papa seduto in cattedra, attorniato da cardinali e altre persone che reggono i libri e i cartigli su cui si possono leggere scritte che fanno riferimento alla sua opera di riforma pastorale. Questo dunque per la parte destra del trittico, dove c'è la scritta Cerbo Nimis, che è un'altra enciclica dedicata all'insegnamento della dottrina cristiana. La parte sinistra invece è dedicata alla lotta contro il modernismo e prende il nome proprio dal documento dedicato a questo argomento, Pascendi Dominici Gregis. Il secondo trittico parla della riforma religiosa. I lavori di pintura furono interrotti per la guerra. Appunto, Pio X è morto nell'agosto del 14, ma praticamente pochi mesi dopo l'Italia entrava in guerra. Solo nel 1920 il pittore poté mettere mano al secondo affresco dedicato al tema dell'Eucaristia e al sacerdozio, partendo dal motto di Papa Pio X, instaurare omnia in Cristo. Al centro un altare racchiuso dentro una balaustra, sopra un'alta scalinata, sulla mensa un calice da cui emerge l'ostia consacrata. Tutta la luce che da lì parte illumina idealmente tutto il dipinto. Il pannello a destra è dedicato al sacerdozio e il gruppo vede quattro chierici circondati dalle tre virtù. E anche qui ci sono dei riferimenti, delle esortazioni, testi appunto di Pio X, Haerent Animo Penitus e Sacra Tridentina Synodus. Un'opera insomma da vedere con calma, perché ci sono molti dettagli di questi due grandi trittici. Un'opera che ha lasciato una testimonianza diretta e contemporanea dell'azione pastorale di Pio X, anche se realizzati in parte dopo la morte del pontefice. Dagli appunti del pittore Biagio Biagetti sappiamo che poco prima di arrivare a Treviso mostrò personalmente al pontefice i bozzetti dell'opera, il quale li apprezzò molto e in un certo senso vi riconobbe una fedele interpretazione della sua azione pastorale. I testi che ho citato sono di Don Luca Vialetto, che è responsabile dell'ufficio beni culturali ecclesiastico della diocesi di Treviso, e trovate nel numero di Pasqua a pagina 17 della Vita del Popolo. Ricordiamo che la diocesi di Treviso organizza il pellegrinaggio diocesano a Roma presso la tomba di San Pio X, che è sulla navata sinistra, il secondo altare. Il primo è San Giovanni XXIII, mentre di fronte a Pio X, sulla navata destra, ci sarà un altro Papa, San Giovanni Paolo II, come lo chiameremo fra 7 giorni. L'appuntamento con il pellegrinaggio diocesano è dall'8 al 10 settembre, con due diversi programmi di 3 giorni partendo il lunedì o di 2 giorni partendo il martedì, con costi che vanno dai 140 ai 270 euro a seconda dell'età, dei supplementi e dei dettagli. Per informazioni e iscrizioni l'ufficio diocesano pellegrinaggi di Treviso 0422 576 882. Tra poco la Santa Messa Pasquale, che sarà proprio dalla Cattedrale di Treviso, di cui abbiamo descritto alcuni affreschi. Ancora a tutti buona Pasqua e buon ascolto con i programmi di Blu Radio Veneto.